Perfetto Giorno di Alessio Maurizi. A Davos va in scena la sfida Greta Trump per l'attivista svedese. Nonostante gli impegni, a parole le emissioni aumentano. Trump invece attacca gli ambientalisti, profeti di sventura, e celebra l'America che, dice, è tornata a vincere. Cina, i morti per il virus salgono a 6, caso sospetto in Australia, il ministro consiglia di evitare i viaggi a Wuhan. Bimba morta in un incendio nel Fermano, svolta nelle indagini, arrestata la madre. Suonarono alle nozze della vedova di un boss, a Napoli licenziati 5 ispettori della polizia penitenziaria. Buongiorno da Alessio Maurizi e dalla redazione, ben ritrovati con Effetto Giorno, il punto delle notizie a metà giornata. Nei prossimi 15 minuti la sintesi delle notizie di oggi, poi dalle 13:15 i nostri approfondimenti. Cominciamo con il World Economic Forum di Davos, dove è la giornata dell'attivista svedese per l'ambiente Greta Thunberg, ma anche e forse soprattutto quella del presidente americano Donald Trump. Discorsi incrociati, i due, sentiamo il racconto dell'inviato a Davos del Sole 24 Ore, Stefano Carrer. Ha persino citato il Rinascimento italiano e la costruzione della cupola del Duomo di Firenze con tecnologie che ancora non esistevano, per ricollegarsi al presente in termini di grande fiducia, determinazione e spirito visionario. Donald Trump, arrivando al forum di Davos, ha sfondato i tempi assegnati con un discorso enfatico e iperottimista, in gran parte dedicato a enunciare le conquiste della sua amministrazione. When I spoke at this forum 2 years ago, I told you that we had launched the great boom economico di borsa senza precedenti e sviluppo inclusivo grazie a piani e riforme, ha detto, che hanno messo al centro il cittadino e il lavoratore e hanno quindi portato progressi anche alle fasce deboli della popolazione. Il tutto anche se la Federal Reserve ha alzato i tassi troppo presto e riabbassati troppo tardi. Tutto merito suo, insomma, e quanto al problema dei cambiamenti climatici, più che altro il presidente ha sottolineato che gli Stati Uniti sono diventati il primo produttore mondiale di petrolio e gas, invitando gli europei a comprare energia americana. Un invito che potrebbe sottintendere una minaccia in caso non vengano raggiunti accordi per riequilibrare il deficit con l'Europa. All'enfasi di Trump ha corrisposto oggi al forum la tristezza degli accenti dell'ecoattivista Greta Thunberg. Anche se sono cresciuti i movimenti giovanili ecologisti, ha detto, non è servito a niente ancora, perché contro i cambiamenti climatici non si è fatto ancora praticamente nulla. La stampa non ne parla abbastanza e così le emissioni nocive aumentano ancora, anche se la gente per questo motivo muore. Stefano Carrer, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Davos. Lasciamo Davos ma restiamo all'estero e andiamo in Cina, dove si aggrava il bilancio dei morti a causa del misterioso virus simile alla SARS comparso a dicembre scorso. Le autorità sanitarie hanno annunciato che le vittime sono salite a 6. Sentiamo. Aumenta di ora in ora il numero di decessi legati al coronavirus originato in Cina e simile alla SARS, che ha contagiato quasi 300 persone, per lo più nella città di Wuhan, il focolaio da cui è partita l'epidemia. Ma sono segnalati anche casi fuori dall'epicentro, a Pechino e Guangdong in Cina e poi in Thailandia, Giappone e Corea del Sud. A fare il punto è il Centro Europeo per il Controllo delle Malattie, che ritiene comunque ancora basso il rischio dell'arrivo del virus in Europa. Tutti i casi diagnosticati fuori da Wuhan sono relativi a persone che avevano viaggiato nella città cinese, dove sono in corso attività e misure ulteriori di igiene e pulizia ambientale. Pur essendo basse, le probabilità di arrivo del virus nell'Unione Europea possono ora aumentare con le imminenti celebrazioni del Capodanno cinese, previste tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio. Un giro di vite per contenere la diffusione del virus è stato predisposto in Giappone, dove il premier Shinzo Abe ha ordinato l'applicazione di un sistema di quarantena per il controllo dei passeggeri provenienti dalle aree definite a rischio. Rosanna Magnano, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Veniamo in Italia con la cronaca svolta nelle indagini sulla morte di una bimba di 6 anni a seguito di un incendio notturno scoppiato l'8 gennaio scorso in un appartamento nel centro storico di Servigliano. Siamo nella zona di Fermo. La madre è indiziata di omicidio. Avrebbe ucciso la figlia di 6 anni e poi avrebbe appiccato un incendio per mascherare il delitto compiuto. Con questa accusa è stata arrestata la mamma della bimba morta in un incendio nel piccolo comune di Servigliano in provincia di Fermo. L'8 gennaio scorso l'appartamento nel centro storico in cui la piccola viveva e dove stava dormendo insieme alla madre e alla sorellina di 4 anni era stato devastato dalle fiamme. La piccola aveva perso la vita mentre la mamma e la sorella erano riuscite a salvarsi. Ora la svolta nelle indagini. La donna bulgara di 38 anni è stata arrestata. La bambina sopravvissuta invece già la scorsa settimana era stata affidata ad una comunità protetta, mentre la madre si trovava ancora in ospedale per le conseguenze del fumo inalato. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora a Napoli, per l'incredibile vicenda, suonarono alle nozze della vedova di un boss a Napoli. Per questo oggi 5 ispettori della polizia penitenziaria sono stati licenziati. Avevano suonato nel marzo scorso a Napoli al matrimonio tra il cantante neomelodico siciliano Tony Colombo e Tina Rispoli, la vedova del boss della camorra Gaetano Marino. Una cerimonia fatta di carrozza con cavalli, trampolieri e appunto banda musicale. Ora, a 10 mesi di distanza, i 5 trombettisti, tutti ispettori appartenenti alla banda musicale della polizia penitenziaria, residenti in Campania, sono stati licenziati. Lo ha deciso l'amministrazione della penitenziaria stessa per il danno d'immagine arrecato dai 5 al corpo, con il quale sarebbe quindi anche venuto meno il rapporto fiduciario. A coinvolgere 5 musicisti ispettori, verosimilmente un'agenzia che organizza eventi. Le immagini delle nozze, che ritraevano anche i musicisti all'opera, divennero subito virali e risultarono determinanti per incastrare gli ispettori, a cui qualche giorno dopo venne comunicata la sospensione in via cautelativa. Le nozze, oltre ad un vespaio di polemiche, fecero scattare un'indagine della procura antimafia partenopea, in particolare sul concerto andato in scena il giorno prima del matrimonio in piazza del Plebiscito. Nei giorni scorsi sono stati ascoltati in procura i 2 sposi e Claudio De Magistris, fratello del sindaco di Napoli, indagato perché avrebbe indicato al cantante e 2 membri della segreteria del sindaco ai quali rivolgersi per ottenere le autorizzazioni. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora siamo alla politica, ancora alle prese con il caso Salvini Gregoretti, Elisabetta Fiorito. Sì, Alessia, allora, dopo il caso Gregoretti arriva un'altra grana per la maggioranza, la prescrizione attesa per il vertice di oggi pomeriggio per il premier Giuseppe Conte sarà un incontro risolutivo, non bisogna fermarsi alla prescrizione che è la parte del tutto, per Conte l'obiettivo è accelerare i processi e il processo penale, avere una giustizia giusta è l'interesse dei cittadini, dice il premier. La mediazione potrebbe quindi concentrarsi sul differente trattamento che sarebbe riservato ad assolti e condannati in primo grado, ma mantenendo lo stop alla prescrizione solo nel secondo caso, quello dei condannati. La volontà è non creare ulteriori problemi alla vigilia del voto in Emilia Romagna e Calabria, soprattutto con Italia Viva pronta a votare il DDL Costa a partire dal 27 gennaio alla Camera sulla revisione della riforma a buona fede. Ieri, ricordavi anche tu, il voto in giunta per le immunità del Senato che ha dato il via libera al processo a Matteo Salvini. Sul caso Gregoretti la maggioranza non ha partecipato al voto per evitare strumentalizzazioni del leader della Lega che si dice disposto ad andare a processo per la libertà, mentre Luigi Di Maio attacca. Salvini è passato dal sovranismo al vittimismo. A te, Alessio. Grazie Elisabetta. E sullo scontro tra politica e giustizia che si riaccende, il commento, l'analisi di Daniele Biacchessi. Sono passati quasi 28 anni dall'inizio dell'inchiesta Mani Pulite e l'utilizzo della giustizia resta ancora una prassi di gran parte della politica italiana. La conferma giunge da questi primi scampoli di 2020, né più e né meno di allora. Il film di Gianni Amelio riapre il dibattito su Bettino Craxi e da più parti il ruolo del segretario socialista viene raffigurato secondo convenienza, latitante o esiliato, statista o capo del sistema corruttivo. Sul tema della prescrizione della legge Bonafede, il governo rischia la crisi politica per la ferma opposizione di Italia Viva di Matteo Renzi. La concessione o meno dell'autorizzazione a procedere contro l'ex ministro dell'Interno Matteo Salvini sul caso della nave Gregoretti diventa oggetto di duro scontro e si giunge al paradosso di chiedere il processo per il proprio leader, cosa mai accaduta nella storia repubblicana. Insomma, l'uso politico della giustizia è certamente un male internazionale. locale, ma possiede caratteristiche e specificità tutte italiane. Quando la magistratura è costretta ad intervenire istituendo processi contro esponenti politici o istituzionali, viene sconfitto proprio il senso alto della politica, che invece dovrebbe trovare soluzioni e mediazioni, e di questa inerzia è intrisa il nostro paese. Torniamo all'estero per alcune notizie. In Iran l'inchiesta dell'aviazione iraniana ha confermato che sono stati due i missili sparati contro l'aereo ucraino precipitato l'8 gennaio scorso con 176 persone a bordo. Teheran ha anche chiesto aiuto a Parigi e Washington per decrittare le scatole nere. Libia, l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell ha confermato ieri l'intenzione di Bruxelles di riprendere l'operazione Sofia sul controllo del Mediterraneo anche per monitorare l'embargo delle armi. Intanto la tregua sul campo sembra reggere, ma il vero ostacolo alla pacificazione sembra essere sempre il ruolo delle tribù in Libia. Gigi Donelli ne ha parlato con la storica Simona Beret, secondo la quale la partita si gioca nel Fezzan, la regione desertica del sud. Sentiamo perché. La notizia di questi giorni, ovvero il blocco del giacimento di Al-Sharara, che tradotto dall'arabo vuol dire la scintilla, è il giacimento più grande della Libia. Ecco, questa occupazione conferma che la figura di Haftar e il suo esercito, il Libya National Army, ormai rappresenta un interlocutore dotato di un enorme peso, mentre invece la posizione di Sarraj appare sempre più debole. Ecco, i fatti occorsi nel Fezzan, che è questa regione meridionale desertica della Libia, che una volta era nota come la Siberia del Sole per la sua desolazione, ci ricordano che la partita si gioca lì, perché lì vi sono concentrate, oltre che importanti risorse petrolifere, anche risorse idriche. Il sottoterra del sud libico è ricco non soltanto dell'oro nero, il petrolio, ma anche di oro blu, l'acqua dei giacimenti idrici fossili, per intenderci quella che alimenta il grande fiume artificiale. Non solo, il Fezzan rappresenta una rotta strategica dei movimenti che partono dal Corno d'Africa. Si tratta di movimenti di uomini, migrazioni, ma anche di armi e di altri beni più o meno legali. In chiusura una notizia che riguarda la tormentata vicenda delle acciaierie ex Ilva. Sentiamo. Non ci sono più appigli per il disimpegno di ArcelorMittal. La revoca dello spegnimento dell'altoforno 2 dell'ex Ilva, decisa nelle scorse settimane dal Tribunale del Riesame di Taranto, ha infatti azzerato le argomentazioni del gruppo franco-indiano. È la tesi sostenuta dai legali dei commissari straordinari delle acciaierie tarantine e contenuta nella memoria di replica depositata ieri sera in Tribunale a Milano nell'ambito della causa civile con ArcelorMittal. Nella memoria si definisce inoltre falsità conclamata l'affermazione del gruppo sulla mancata estensione dello scudo penale che, secondo i franco-indiani, renderebbe impossibile attuare il piano ambientale senza incorrere responsabilità anche penali, responsabilità legate ai problemi ambientali ereditati dalle precedenti gestioni. I legali dei commissari straordinari quantificano anche il danno economico in caso di un disimpegno di ArcelorMittal. L'addio del gruppo causerebbe una riduzione del PIL di 3,5 miliardi di euro, pari allo 0,2 del prodotto interno lordo italiano e allo 0,7 del PIL del Mezzogiorno. Teresa Trillò, Radio 24. Il Sole 24 Ore, Roma. 13 e 13 minuti, effetto giorno, fa una pausa, torniamo tra poco con gli approfondimenti, parleremo del virus cinese con l'infettivologa Gloria Taliani e cercheremo di capire qual è il tasso di mortalità ma anche la velocità di trasmissione di questo virus, insomma quello che c'è da sapere. Poi saremo con l'inviata di Radio 24 ad Auschwitz, Raffaella Calandra, in vista della giornata della memoria. Poi parleremo anche dell'incredibile caso dei trombettisti della banda della polizia penitenziaria di Napoli che suonarono alle nozze della vedova di un boss a Napoli e oggi la notizia è che fortunatamente sono stati licenziati. 349-238-6666 per i vostri messaggi e c'è anche la pagina Facebook di Effetto Giorno per commentare le notizie di oggi. A tra poco. Fly KLM, fly responsibly. KLM, linea aeree olandesi, è impegnata a sostegno dell'ambiente e per uno sviluppo sostenibile del trasporto aereo. Acquista entro il 27 gennaio per volare verso la destinazione dei tuoi sogni fino al 30 novembre con le nuove offerte Dream Deal. L'Havana e Panama da 429 euro, Los Angeles da 556 euro. Tariffe andate e ritorno da Milano, tasse supplementi inclusi. Per info e condizioni, oltre a notizie sulla nostra politica ambientale, vai su klm.it. Effetto giorno. A Davos è il giorno di Greta e Trump. Per l'attivista svedese, nonostante gli impegni a parole, le emissioni aumentano. Trump invece attacca gli ambientalisti profeti di sventura e celebra l'America che, dice, è tornata a vincere. Cina, i morti per il virus salgono a 6. Il ministero consiglia di evitare i viaggi a Wuhan. A effetto giorno l'infettivologa Gloria Taliani. Ex Ilva, battaglia legale in tribunale, i commissari accusano ArcelorMittal, falsità sullo scudo penale. Suonarono alle nozze della vedova di un boss a Napoli, licenziati 5 ispettori della polizia penitenziaria. Verso la giornata della memoria che si celebra il 27 gennaio, tra poco il racconto della nostra inviata ad Auschwitz, dove le truppe sovietiche entrarono nel 1945 liberando i prigionieri dell'Olocausto. Sono le 13:16, di nuovo buongiorno cari ascoltatori da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Effetto Giorno. Quelli che avete appena sentito erano i titoli delle principali notizie, tra i quali anche l'aumento del numero di casi mortali del nuovo virus cinese che preoccupa la comunità internazionale. Con noi Gloria Taliani, direttrice del reparto di malattie tropicali all'Umberto I di Roma, nonché professore ordinario di malattie infettive alla Sapienza, benvenuta. Ben trovati, buongiorno. Allora, intanto di che tipo di virus stiamo parlando? Definiamo l'oggetto di questa preoccupazione, che è fondata perché ci sono già delle vittime e dei casi anche fuori dalla Cina. Sì, si tratta di un coronavirus a cui noi in qualche modo siamo già abituati a fare fronte, perché per la prima volta si è manifestato con la famosa SARS del 2003. E poi successivamente in un'altra epidemia ben più grave, l'epidemia di coronavirus medio orientale. In realtà è un virus per certi versi conosciuto e anche relativamente innocuo, capace di dare dei raffreddori comuni, un malessere abbastanza contenuto, ma in qualche caso, sì, soprattutto quando avviene il salto di specie, quindi quando il virus che si è adattato ad una popolazione ospitante di tipo animale selvatico, può essere volatile, può essere piccolo mammifero, fa il salto di specie e passa ad infettare il genere umano, quindi sì, un soggetto appartenente alla nostra specie sul quale non si è adattata, allora determina una patologia più grave che, come abbiamo visto con le epidemie di SARS e di MERS, può essere anche significativamente temibile. Senta, sì, prego. E questo è avvenuto anche nel caso di quest'ultimo coronavirus, quindi la famiglia è sempre la stessa, probabilmente l'origine è diversa, un nuovo elemento virale, tant'è vero che la sequenza recentemente ha dimostrato che non è lo stesso virus a cui ci eravamo già in qualche modo abituati. E quindi in questo senso ci preoccupa un po' perché lo conosciamo di meno. Ecco, tra le cose che conosciamo per quanto riguarda la velocità con cui si trasmette questo virus rispetto ad altri virus, ma anche il tasso di mortalità di questo virus, le vittime sono fino ad ora accertate 6, i casi secondo le fonti sarebbero 2, 3, 400, qualcuno parla, un studio inglese credo che parli addirittura di 1700 casi, lei che informazioni ha? Dunque, le informazioni in questo momento sono molto limitate e molto caute, insomma, l'ufficialità dei dati è tenuta sotto stretta sorveglianza, quindi la mortalità in questo momento si attesta comunque al di sotto dell'1%. Teniamo presente che nella mortalità per SARS noi abbiamo fronteggiato tassi del quasi 10%. Quindi al momento il tasso di mortalità è molto più basso della SARS, un ordine di grandezza. Assolutamente, e infinitamente più basso della MERS, quella medio orientale, che è arrivata anche al 30% di mortalità. Quindi questo è l'unico elemento su cui oggi noi ci possiamo attestare. L'altro elemento relativamente di tranquillità sta nel fatto che abbiamo scoperto in questi giorni, sì, che l'infezione è trasmessa per via interumana, cosa che all'inizio non era chiara. Era in forze, certo. Quindi oggi lo sappiamo invece con certezza, la trasmissione avviene da un essere umano all'altro. Quello che non è noto e non è chiaro è se i soggetti con infezione blanda possano essere altrettanto infettivi che quelli con infezione invece ben documentata, ben evidente clinicamente, che hanno accesso alle strutture ospedaliere. Là, in quel contesto, i malati con malattia più grave, quindi presumibilmente con viremie molto più elevate, hanno dimostrato di essere dei formidabili trasmettitori. Ecco, ammesso che insomma, chi ci sta ascoltando possa essere in qualche modo possa venire a contagio con delle fonti di questo virus, al momento in Italia non ci sono casi, ci sono stati pochissimi casi all'estero, ma insomma in ogni caso ricordiamolo, cosa fare per diminuire i rischi, le solite cose, cioè oltre a quello che possono fare le autorità, tipo i controlli agli aeroporti, lavarsi le mani, cos'altro? Sì, lavarsi le mani, se proprio è indispensabile muoversi in zone affollate e con compagni di viaggio di provenienza sconosciuta, la possibilità di avere una protezione respiratoria potrebbe essere utile, ma questo vale per gli aeroporti intercontinentali nei quali c'è un flusso imprevisto di viaggiatori o comunque di zone di provenienza non conosciute. Per il momento, da quello che sembra di capire, sì, i toni dovrebbero essere comunque tenuti piuttosto bassi, con un regime di relativa tranquillità, perché è vero che i cinesi in questa fase dell'anno, in questo momento dell'anno, si stanno muovendo, ma si muovono molto all'interno della Cina, e le zone in cui la malattia è stata riportata appartengono comunque alle aree geografiche circostanti alla Cina, alla Thailandia, al Giappone, alla Corea. Quindi al di fuori di questo non sembra siano stati descritti dei casi, quindi non è il momento, non è il caso di essere allarmati. Comunque una limitazione di viaggi alla popolazione in movimento al momento dall'Organizzazione Mondiale della Sanità non è raccomandata. Il Ministero della Salute ha detto, diciamo, che se non è strettamente necessario, di non recarsi a Wuhan, in quella zona della Cina. Però mi sembra minimo che si possa raccomandare. Certo. Grazie Gloria Taliani, grazie per essere stata con noi, infettivologa della Sapienza. Dice 23 minuti, torniamo a parlare di rifiuti, perché proprio nelle ore in cui circolano sui giornali di oggi le stime del laboratorio di ricerca REF, che ha calcolato la quantità di camion che ogni giorno, ogni settimana, ogni mese, ogni anno girano in Italia per trovare ai rifiuti in eccesso una destinazione, che sia un impianto per il trattamento, che sia anche un impianto per il recupero energetico, proprio nelle stesse ore arriva un altro allarme, ed è quello dell'APEC, l'Associazione Piattaforme di Economia Circolare, che dice la raccolta aumenta bene ma non trova sbocchi sul mercato, il materiale comincia ad accumularsi pericolosamente negli impianti. Laura Bettini ha chiesto a Claudia Russo, consigliera di APEC, perché. Sentiamo. Abbiamo lanciato questo grido di emergenza perché si è registrato un aumento della raccolta differenziata, di contro abbiamo però registrato una diminuzione degli sbocchi all'estero e una diminuzione della capacità di assorbimento delle industrie utilizzatrici finali. Manca un pochino il consumatore finale, sia in Italia che all'estero. Perché altrimenti voi segnalate, siamo costretti a chiudere tra poco. A chiudere, sì, siamo costretti a rifiutare nuovi riferimenti di rifiuti da avviare al riciclo. Quindi come si può far fronte a questa situazione? Per quanto riguarda le piattaforme che attualmente fanno trattamento e selezione dei rifiuti in ingresso e quindi poi hanno l'onere per trasformare tali rifiuti in materie prime secondarie, volevamo appunto chiedere un supporto mediante il quale riescano ad utilizzare delle attrezzature specifiche, quali un impianto di selezione meccanica per la cernita, per creare un prodotto che sia di qualità maggiore. Poi invece vorremmo facilitare lo smaltimento degli scarti di lavorazione delle aziende del riciclo, quindi vorremmo supporto anche in quella che è l'identificazione di discariche finali per gli scarti e non in ultimo una minore limitazione relativamente agli stoccaggi, questo proprio per far fronte all'emergenza. Entro quando, diciamo, dovrebbe arrivare una risposta per evitare di raggiungere una situazione? Purtroppo il tempo è scaduto ieri. Lunedì prossimo, il 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, una ricorrenza internazionale che ogni anno viene celebrata per commemorare le vittime dell'Olocausto. Si è stabilito di farlo il 27 gennaio perché in quel giorno del 1945 le truppe dell'Armata Rossa entrarono nel campo di Auschwitz e liberarono i prigionieri del campo di concentramento. E allora noi ci colleghiamo con Auschwitz, dove c'è la nostra inviata Raffaella Calandra. Buongiorno Raffaella. Ciao Alessio, buongiorno. Spero in condizioni, diciamo, di poter raccontare, perché so che sei impegnata a seguire quello che è il modo in cui anche Auschwitz si sta preparando, con degli eventi naturalmente come ogni anno, a questa celebrazione internazionale. Sì, è stato già allestito un grande tendone bianco proprio all'interno del campo di Auschwitz-Birkenau, dove lunedì ci saranno le cerimonie ufficiali nel ricordo del 75esimo anniversario della liberazione di quello che è stato il più grande campo di sterminio neonazista. E da qui, proprio da dove vi parlo in questo momento, qui dove terminavano i binari delle ferrovie che fino al 75 anni fa portavano migliaia e migliaia di ebrei destinati alla morte, oggi c'è la memoria dei sopravvissuti, ma c'è anche un nuovo monito rispetto ai nuovi pericoli di antisemitismo che continuano ad attraversare questa stessa Europa che 75 anni fa rese possibile questo, il suo buco più nero della sua storia, e che oggi continua ad essere attraversata dai nuovi timori di antisemitismo, che sarà anche il tema di cui da domani a Gerusalemme decine di capi di Stato, compreso il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, parleranno con Netanyahu e con tutti i rappresentanti, diciamo, di questo che è considerato tra i più importanti momenti della commemorazione, della riflessione sull'antisemitismo oggi a Gerusalemme e poi lunedì prossimo qui ad Auschwitz. Adesso. Ecco, essere ad Auschwitz, Raffaella Calandra, vuol dire anche avere la possibilità di incontrare delle persone, fare raccogliere delle storie che ci danno da un lato la dimensione di quanto sia grande questo passato, ma anche, come dicevi tu, di quali siano i rischi oggi per quanto riguarda l'antisemitismo. Se ne sente parlare molto nei giornali, ci sono dei sondaggi, non tutto però, diciamo, mi metto nei panni di alcuni ascoltatori scettici, non è tutta panna montata dei giornali, perché ci sono notizie e storie reali. Tu hai fatto anche degli incontri a questo proposito. Sì, purtroppo i segnali che arrivano da tutti i paesi d'Europa sono terribili, perché raccontano di un antisemitismo in crescita. Lo abbiamo visto con l'attentato di Halle contro la sinagoga in Germania, lo abbiamo visto con episodi anche meno gravi di attacchi alle comunità ebraiche, e lo vediamo tuttora anche in singole espressioni, a volte anche di insulti e di attacchi alla comunità ebraica e non solo. E oltre a questi avvertimenti sulla diffusione di un antisemitismo che anche la vicepresidente della Commissione europea qui pochi minuti fa dal campo di Auschwitz ha voluto rinnovare, perché c'è più della metà degli ebrei in Europa che tuttora continua a denunciare casi di antisemitismo, oltre al fatto che è in crescita il numero delle famiglie che decidono di lasciare l'Europa per andare in Israele. Ebbene, una testimonianza diretta l'ho raccolta da un quarantenne tedesco berlinese che per 10 anni è stato un membro di un gruppo neonazista, e che forse possiamo, la cui voce possiamo forse sentire anche in sottofondo. Neonazi-Gruppe und bin dann durch mein Konflikt. Questa è la voce di Lutz Langer, diventato Jonathan Langer, che per 10 anni, come avete sentito, è stato un militante di un gruppo neonazista, richiamato dal suo maestro di karate, ha raccontato dall'assenso di appartenenza a questo gruppo che lo portava proprio a organizzare azioni di violenza contro gli ebrei, contro gli stranieri, contro tutto il tutti coloro che apparivano diversi. Ebbene, quest'uomo poi ha abbandonato quella strada, oggi chiede perdono per quell'odio provato, oggi è diventato anche ebreo, si è trasferito a Tel Aviv, ma lui stesso racconta di quanto diffuso in Germania, e non solo in Germania, sia questa nuova ondata di antisemitismo che porta anche alla creazione di nuovi gruppi di neonazisti, che in Germania purtroppo sono un problema estremamente serio. Grazie Raffaella Calanda, grazie, in collegamento da Auschwitz. E insomma, questo era il racconto, questa era la storia, torneremo a parlarne nei prossimi giorni. Anche oggi Nessun Nuovo è Lontano, ci sarà un'anticipazione di quelli che sono i temi che approfondiremo per quanto riguarda la giornata della memoria nei prossimi giorni. Insomma, la notizia è anche che dai gruppi neonazi, di deliranti sognatori neonazi, si può uscire bene, come ci ha raccontato poco fa Raffaella Calanda. 13:31, 349-238-6666, ci trovate anche sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Torniamo tra poco e vi racconteremo, come anticipato, l'incredibile storia dei trombettisti della banda della polizia penitenziaria di Napoli che suonarono alle nozze della vedova di un boss e, fortunatamente, notizia di oggi, sono stati licenziati per questa. Fineco, la banca che semplifica la banca, vi presenta Effetto Giorno. A Davos va in scena la sfida Greta Trump. Il presidente americano attacca gli ambientalisti profeti di sventura e celebra l'America vincente per l'attivista svedese. Nonostante gli impegni a parole, le emissioni aumentano e il pianeta soffre. Cina, i morti per il virus salgono a 6, caso sospetto in Australia, il ministero consiglia di evitare i viaggi a Wuhan. Bimba morta in un incendio nel Fermano, svolta nelle indagini, è stata arrestata la madre. Suonarono alle nozze della vedova di un boss a Napoli, licenziati 5 ispettori della polizia penitenziaria, a Effetto Giorno la parola al sindacato degli agenti. minuti di nuovo, buongiorno cari ascoltatori, da Alessio Maurizi, ben ritrovati con Effetto Giorno. Quelli che avete appena sentito erano i titoli principali di oggi. I vostri messaggi invece al 349-238-6666 sulla pagina Facebook di Effetto Giorno. Ci sono diversi commenti all'intervista che abbiamo realizzato con la dottoressa Taliani, infettivologa, sul virus cinese. La dottoressa ha dato informazioni e notizie divergenti da quelle date dai giornalisti. Questi ultimi sanno dare, scrive questo ascoltatore, soltanto allarmi, e invece qua sono arrivate informazioni. Molto bene, siamo contenti di aver fatto una cosa utile. Poi c'è, insomma, tanti messaggi, tipo, beh, questo Lucio scrive: basta SARS, basta virus, basta vaccini inutili e dannosi. Lucio, forse bisogna decidersi, però, perché basta SARS e virus, siamo d'accordo. Magari avere un vaccino anche per questo virus, che non c'è ancora, naturalmente non si farà in tempo probabilmente. Un altro ascoltatore dice: 5 morti su 1 miliardo di persone, mamma mia i giornalisti. Però siamo all'inizio di un contagio, ricordiamoci che la SARS fece centinaia di vittime, quindi insomma, poi è cronaca, stiamo a vedere. Non vedo perché dovremmo trascurare la causa solo perché sono 5 vittime, e non di più. È il momento invece del punto del vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. Oggi la fiaba ecologica che si racconta a Davos, dove, per dirla con il numero uno di JP Morgan, Jamie Dimon, i miliardari spiegano ai milionari cosa fa la classe media, si arricchisce di un nuovo personaggio. Stiamo parlando del cigno verde, che ormai sostituirà il cigno nero, l'animale più temuto nello zoo della finanza, dove, come è noto, girano orsi, tori, falchi, colombe, gufi. Il cigno nero identifica il fatto imprevedibile che crea le crisi. Il cigno verde invece è la nuova creazione della Banca dei Regolamenti Internazionali. Sta mettendo in guardia gli investitori di tutto il mondo sui rischi legati al clima, che, se sottostimati, potrebbero portare a crolli imprevisti del PIL globale e a un aumento non calcolabile dei costi della transizione energetica. Del resto, in ogni fiaba che si rispetti c'è sempre il lato oscuro, e l'ombra del cigno verde incombe così sul racconto svizzero di un nuovo capitalismo che sta mobilitando risorse colossali per l'ambiente, anche perché, ma questo è un po' sottaciuto, la sostenibilità sta diventando un vero affare. Il tema ora è la velocità con cui il mondo deve cambiare. Gli esperti ci dicono di correre, altrimenti il cigno verde ci raggiunge. 13:40, è con noi, lo salutiamo, Ciro Auricchio, segretario per la campagna dell'Unione Sindacati Polizia Penitenziaria. Buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Per commentare questa notizia, oggi l'amministrazione penitenziaria ha fatto sapere di aver disposto il licenziamento di 5 ispettori trombettisti appartenenti alla banda musicale della Polizia Penitenziaria che quasi un anno fa, il 27 marzo dell'anno scorso, a Napoli suonarono al matrimonio tra il cantante neomelodico Tony Colombo e la vedova del boss della Camorra Gaetano Marino. Lei si chiama Tina Rispoli. Insomma, ci sono dei colleghi licenziati, Auricchio, ma per un motivo molto pesante, quantomeno sono stati inopportuni, uso questa parola proprio con cautela, ma quantomeno, perché poi ci sono anche altre questioni, altri sospetti. Però, qual è la vostra posizione intanto? No, noi come posizione di sindacato di polizia ci siamo espressi in merito al licenziamento, che umanamente dispiace, però deve essere da monito anche agli altri appartenenti al corpo avere un comportamento comunque in regola con le norme, in regola col regolamento di servizio della polizia penitenziaria e degno chi indossa un uniforme dello Stato. Perché il sospetto, poi non so se ci saranno anche delle indagini più ad ampio respiro che non su questo singolo caso, è che questi agenti della polizia penitenziaria non solo sono stati inopportuni, ma questa partecipazione alle nozze della vedova del boss di Camorra, testimoni, una vicinanza, una contiguità troppo inquietante con esponenti della criminalità. È ammissibile questo? No, ma io penso che sono andati a suonare come trombettisti non per la vicinanza, ma perché da quando sembrava, dalle indagini anche giornalistiche del caso, sono stati contattati da un'agenzia del Napoletano per pressare la loro opera. Scusi, però lei mi vuol dire che loro non sapevano alle nozze di chi stavano suonando? Cioè agenti della polizia penitenziaria che non avevano riconosciuto la vedova del boss? Mi sembra strano. No, le spiego però perché. Cioè questi ispettori sono di stanza nella banda musicale, non fanno servizio negli istituti penitenziari, sono adibiti alle mansioni di musicisti. Cioè loro hanno una specializzazione del corpo e quella di musicisti, che noi comunque abbiamo condannato subito anche nelle fasi iniziali. Noi abbiamo preso una posizione forte dicendo che comunque hanno comunque tra virgolette infangato il corpo e comunque hanno avuto un comportamento non consono rispetto. Cioè lei immagina che siano stati strumentalizzati, questo, perché io penso che dal punto di vista di Tony Colombo e di Tina Rispoli, la vedova di Marino, avere degli agenti della polizia penitenziaria che suonano al proprio matrimonio vuol dire, scusi Auricchio, vuol dire, come dire, noi siamo al di sopra della legge. No, ma noi abbiamo condannato anche, perché qua che mi posso permettere, come noi abbiamo inviato anche un comunicato questa mattina quando abbiamo saputo la notizia del licenziamento contro ma non solo facendo riferimento al licenziamento, ma anche a chi ha dato le cosiddette autorizzazioni comunali e quant'altro per quel tipo di cerimonia, e anche contro la signora Rispoli, che comunque continua a dire cose inesatte, perché lei conosceva bene chi era il defunto marito, che era comunque un certo morto. Lei lo sapeva, il punto è se lo sapevano gli agenti. Lei dice che non lo sapevano, però a me sembra molto strano. Questo non glielo posso dire. Cioè lei personalmente cosa si immagina? Che questi agenti, che pure, anche se non erano in servizio, però sono dotati di un, come dire, di un sistema cerebrale, vivono a Napoli, non sapevano, non si erano accorti che erano in un contesto contiguo alla criminalità? No. Su questo c'è stata un'indagine in corso, quindi su questo poiché si chiariranno tanti aspetti di questa vicenda. Però io con onestà intellettuale le volevo pure dire che il corpo di polizia penitenziaria e ogni giorno nelle, carceri. Non è tutto questo il corpo di polizia, italiano, c'è anche dell'altro. Oggi però abbiamo acceso una luce, io la ringrazio Ricchio su questo, perché comunque è un fatto di grave inopportunità, ma anche piuttosto inquietante. Io credo personalmente, dal mio punto di vista, ma bisogna informarsi naturalmente bene sulle singole vicende, ma che bene abbiano fatto a licenziare questi esponenti, ma l'ha detto anche lei, che sia di monito a chiunque altro gli venga in mente di fare una roba del genere. Grazie. Sono le 13:45 minuti, ci fermiamo qua, facciamo una pausa, poi torniamo tra poco, come sempre è lo spazio dei giornali internazionali con Giulia Crivelli, a tra poco.